America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. President Trump taking swift action today at the White House, signing several orders involving federal hiring and trade. Beh, Donald Trump ha fatto notizia soprattutto dal punto di vista economico e commerciale. Devo dire, in generale, si è dato molto da fare, perché ieri ha firmato 3 ordini esecutivi, uno per ritirarsi dalla Trans-Pacific Partnership, un altro per bloccare le assunzioni federali ad eccezione di quelle militari e infine un memorandum per bloccare i fondi federali dirette alle organizzazioni che praticano o promuovono l'aborto all'estero. Ma devo dire che la parte commerciale, la parte economica che ha prevalso, la parte che lui nel suo discorso inaugurale ha definito del protezionismo o comunque un passo indietro sulla globalizzazione, diventa l'alfiere dei no global quando ha detto, fra l'altro, che metterà in moto i meccanismi per cambiare il NAFTA, che negozierà un accordo commerciale con la Gran Bretagna, con Theresa May, che arriverà venerdì qui negli Stati Uniti. Ecco, devo dire, molto attivismo, anche perché ieri è riuscito a vedere gli amministratori delegati e le principali aziende americane e oggi vedrà i capi dell'industria automobilistica, oltre che i sindacati, ma vedrà i Big Three di Detroit, tra cui naturalmente Sergio Marchionne per Fiat Chrysler. Ma vediamo quella che è stata la prima svolta storica degli Stati Uniti sotto Trump. All right, we're gonna sign 3 memorandums right now. The first one is withdrawal of the United States from the Trans-Pacific Partnership. Great thing for the American worker, what we just did. Ecco, qui sentiamo Trump e Priebus che parlano, sono nell'ufficio Oval, ci sono tra l'altro anche alcuni di questi executive, e Donald Trump, seduto alla sua scrivania, ha appena firmato un ordine esecutivo che ritira gli Stati Uniti dal TPP. TPP, Trans-Pacific Partnership, l'accordo per creare un mercato di libero scambio nell'area del Pacifico, avrebbero dovuto partecipare 12 paesi, e gli Stati Uniti sono stati il motore per questo accordo, e perché c'erano anche ovviamente delle ambizioni politiche, delle ambizioni di tenere comunque a bada in qualche modo la Cina. Ecco, e con questa mossa gli Stati Uniti annunciano di fatto una svolta storica in quello che è stato un processo pluridecennale, trentennale, quarantennale per la liberalizzazione dei commerci mondiali, rinunciando all'approccio multilaterale a favore di accordi bilaterali. As the president has said many times, this type of multinational agreement is not in our best interest. This executive action ushers in a new era of US trade policy. Vi dicevo che Trump vuole rinegoziare il NAFTA, probabilmente non smantellerà il NAFTA, ma lo vuole rinegoziare. Se oggi si vede con i 3 grandi dell'auto, Sergio Marchionne di Fiat Chrysler, Mark Fields, amministratore delegato di Ford, Mary Barra, amministratore delegato di General Motors, probabilmente anche per chiedere loro consigli, idee, suggerimenti su come procedere lungo queste linee. Perché, per esempio, la Fiat produce la 500 per il mercato americano in Messico. Devo dire, una volta chiacchierando con Marchionne, ci disse, ma sapete, i margini su quella vettura nel momento in cui la vendiamo sono davvero minimi. Figuriamoci se dovessero mettere delle tariffe del 35% o peggio, se dovessero riportare la produzione negli Stati Uniti, ci sarebbero dei costi di avviamento che alla fine finirebbero per rendere impossibile la produzione negli Stati Uniti. La visita di Theresa May invece è molto importante perché con lei Trump conferma, lo ha confermato ieri, che c'è una relazione preferenziale storica tra Washington e Londra e dunque si discuteranno anche interessi politici naturalmente e poi ci sarà questo negoziato per liberalizzare i commerci fra i 2 paesi, quindi sul piano bilaterale. Ecco, questa marcia indietro sul multilateralismo commerciale finirà per trascinare anche il TTIP, cioè l'idea di creare un'area di libero scambio nell'Atlantico con l'Europa naturalmente. Ecco, ma che succede? È che l'Europa ha un suo mercato unico, i singoli paesi europei non possono negoziare con gli Stati Uniti. La Gran Bretagna a questo punto invece può farlo perché si considera fuori dall'Unione Europea, anche se non lo è formalmente, dunque non so se ci saranno degli aspetti giuridico-legali che impediranno un avvio immediato di questo negoziato. E dunque bisognerà vedere come andrà a finire, perché è forse possibile che l'America con l'Europa debba negoziare proprio con Bruxelles. Queste sono le direttive. Come se ne esce? Beh, qualcuno dice che sul piano politico qui Donald Trump sta premendo l'acceleratore perché qualche altro paese magari esca dall'Unione Europea e possa così procedere per la realizzazione di accordi bilaterali con Washington. Le ramificazioni, le incognite per questa svolta americana non ci sono solo in Europa, ci sono anche in Asia, perché qual è il paradosso? Che la Cina, che era rimasta fuori da questo accordo TPP perché non rispondeva a determinate esigenze di fondo, non aveva un mercato del sindacato, un costo del lavoro adeguato e così via, ha finito col crearsi una sua area con altri 6 paesi del Pacifico, per cui gli Stati Uniti sbaraccano il TPP, La Cina, che era stata forzata a fare un accordo più piccolo con altri paesi, resta a questo punto il leader dominante del multilateralismo nell'area asiatica. E questo si tradurrà in un passo indietro per gli Stati Uniti? Beh, vedremo, non lo sappiamo. Certo che abbiamo imboccato sicuramente sul piano storico una strada completamente nuova. We want to start making our products again. And that doesn't mean we don't trade, because we do trade. But we want to make our products here. What we're doing, cutting taxes massively. Ecco, l'acceleratore comunque è sull'economia. Trump si è incontrato con gli amministratori delegati di alcune delle più importanti aziende americane, Alex Gorsky di Johnson & Johnson, Marilyn Houston di Lockheed, Mark Fields della Ford, era già lì ieri, Clevin Parnes di Under Armour, Mark Sutton di International Paper, Wendell Weeks di Corning, Elon Musk della Tesla, Andrew Liveris di Dow Chemical, Mario Longhi di US Steel. E insomma, a loro Donald Trump ha detto: io ridurrò le tasse, le ridurrò tra il 15 e il 20%, aveva promesso il 15%, queste sono le aliquote sui profitti aziendali. In realtà ci ha spiegato poi Spicer, che tra l'altro è stato molto più amichevole con i giornalisti, quindi tutta la polemica fra stampa e Casa Bianca in qualche modo un pochino è rientrata ieri, è stato lì per quasi 2 ore, ha parlato di tutto, ma vi dicevo, Spicer ha spiegato che ci sarà un negoziato con il Congresso per capire quale sarà esattamente l'aliquota, quindi se non sarà il 15 sarà più vicino al 20%, questo alla fine cambierà molto. In serata di ieri Trump si è visto con la leadership democratica e repubblicana del Congresso. Sul fronte estero ha parlato col leader egiziano Al-Sisi, l'ha invitato a Washington, ha confermato gli impegni americani sia per aiuti che per armamenti nei confronti del Cairo. Oggi incontrerà delegazioni, oltre ai capi del settore auto, anche delegazioni e organizzazioni sindacali, rappresentanti dell'acciaio, del settore costruzione, del legname. Ci sembrava importante ascoltarli, ha detto Spicer, perché in questo modo il presidente Trump potrà concretizzare la sua promessa di rilanciare l'occupazione e la crescita degli Stati Uniti d'America. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, Donald Trump sta rapidamente cambiando il volto degli Stati Uniti d'America, una politica pluridecennale sul piano economico e commerciale. Devo dire, lo sta facendo anche piuttosto rapidamente. Vedremo poi quali saranno le conseguenze. Come dicevo, la strada è inesplorata. E dunque, canzone del giorno, Bob Dylan, Things Have Changed. Le cose sono già cambiate. A worried man with a worried mind. No one in front of me and nothing behind. There's a woman on my lap and she's drinking champagne. That white skin got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm wild dressed, waiting on the last. Standing on the gallows with my head in the noose. Any minute now I'm expecting all hell to break loose. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care but things have changed. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town, I should be in Hollywood. Just for a second there I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons to the jitterbug rag. Ain't no shortcuts, gonna dress in drag. Only a fool here would think he's got anything. A lot of water under the bridge, a lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but... Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!